veramente simpatiche. Oh, grazie Laura, anche lei, ma, a dirlo. No, no, ma lo so perché. Perché anche quando parlate di malattie o di denaro che si sta perdendo, voi ci date speranza. Ma il cielo è sempre più blu. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Festeggiamenti di piazza Sintagma per le vie di Atene dopo la notizia del risultato del referendum di ieri che ha mostrato in Grecia la vittoria dei no all'accordo con i creditori internazionali. La vittoria del no è stata schiacciante contro ogni possibile pronostico che era stato fatto nei giorni precedenti. I no si sono attestati al 61,3%. Nicoletta, ci siamo sorprese anche noi un po', che abbiamo dovuto rivoluzionare questa mattina Cuore e Denari. Certo, l'abbiamo rivoluzionata dando spazio naturalmente all'attualità, e devo dire che come donna di cuore oggi sarò un po' in difficoltà, ma mi rassicuro perché vedo che anche gli addetti ai lavori brancolano un po' nel buio, a giudicare da come hanno di nuovo sbagliato le previsioni. Quindi invito gli ascoltatori come me che vogliono saperne un po' di più, 800 24 00 24. Le domande sono tante, quindi Deborah ha convocato tutti gli esperti, un parterre di tutto rispetto questa mattina qui per dare le risposte a voi tutti, soprattutto per cercare di capire intanto se ci mettiamo come sempre noi dalla parte del piccolo risparmiatore, per capire cosa potrà fare in questa estate che sarà ancora, non so, dal punto di vista meteorologico bollente, che stiamo veramente sui carboni ardenti in questi giorni a Milano, ma anche dal punto di vista finanziario dovremmo sicuramente prendere confidenza con giornate che saranno discretamente volatili. Un giorno il mercato si muoverà sulla base delle dichiarazioni che arriveranno da Francoforte, una volta da quelle che arriveranno da Bruxelles, poi ancora Atene, partita già la girandola ovviamente degli incontri dei leader europei, ma soprattutto nelle prossime ore monitoreremo con grande attenzione quello che farà la Banca Centrale Europea, perché domani dovranno riaprire le banche greche. Sono assolutamente a secco, anche se hanno già razionato notevolmente il denaro da distribuire ai greci in questi giorni. Come sapete non era possibile prelevare più di 60 euro al giorno, e adesso vedremo se Mario Draghi sarà disposto con tutti gli strumenti di cui dispone a garantire ulteriore denaro. Di fatto c'è la notizia anche delle dimissioni del nostro ministro scamiciato Varoufakis, e paradossalmente anche questo è un fatto che è stato letto in maniera molto interessante da parte degli operatori finanziari e degli analisti politici, perché è un ministro che ha portato a casa un successo, se vogliamo andarla a vedere fino in fondo, e si è dimesso, una cosa che naturalmente né in Italia né in nessun altro paese sarebbe successa. Insomma, il ministro scamiciato ci lascia un po' in mutande. Esattamente. Allora, prima di presentarvi tutti gli ospiti che ci aiuteranno a leggere nelle pieghe di questa giornata finanziaria, vi rifaccio la fotografia di quello che sta accadendo in questo momento sul mercato. Allora, ieri molti avevano detto stamattina l'Europa partirà con cali fra il 3 e il 4%, forse anche più forti. Ebbene, Parigi perde l'1,38%, Francoforte meno 1,19%, Londra perde mezzo punto, Milano meno 2,63%, per le motivazioni che ho già raccontato nel giornale radio. Ci sono molte banche che sono rappresentate nel listino italiano, e quindi quando ci sono giornate finanziarie un po' difficili, il settore finanziario è quello che viene colpito di più dalle vendite, e di conseguenza Milano ne risente un po' di più. Anche lo spread tiene, abbiamo un differenziale fra Italia e Germania sul titolo decennale intorno ai 155 punti base. Paolo Zucca, caporedattore di Plus 24 del Sole 24 Ore, buongiorno. Ciao a voi. Già la vostra storia di copertina di sabato scorso era stata dedicata al tema effetto Grecia sui mercati e cosa potrebbe fare un piccolo risparmiatore in relazione alla volatilità che vedremo nelle prossime settimane. Beh, lo vediamo già da questa mattina, le previsioni sono quelle che tu hai detto, c'erano nuvoloni nerissimi, invece il cielo è ancora abbastanza blu, fa caldo ma è ancora abbastanza blu, perché lo scamiciato Varoufakis si è tolto di mezzo. Un gesto molto clamoroso, vi vedo affrante da questo punto di vista. Un po' di l'idea che non venga quella magliettina con cui si è presentato ieri sera, anche ieri, con le sue dichiarazioni attillatissime, un po' anni 70, no? Siccome su di lui si erano concentrati gli strali soprattutto del centro Europa, ritenuto un giocatore di poker, tutto quello che volete, lui si è tolto di mezzo, come dire, vabbè, se il problema ero io, fate adesso, voi. Adesso trattiamo, esatto. In verità il problema non è Varoufakis, ovviamente è lo riscadenziamento del debito. Cosa può fare un piccolo risparmiatore? Beh, innanzitutto soffre un po' questa fase di grandi oscillazioni, volatilità, no? Come si dice in gergo. Perché chi non ha i PC con i terminali, con le quotazioni accese in ogni momento, fa fatica a seguire questi eventi. Un conto sono informazioni che devono arrivare a una certa ora. La conferenza stampa di Draghi, non si sa cosa debba dire Draghi, ma sappiamo almeno che alle 14 comincia a parlare, non oggi ma diciamo in assoluto. E invece un conto è quando arrivano delle informazioni, che possono essere delle dichiarazioni, possono essere anche interventi della magistratura. E allora lì chiaro, il risparmiatore non è in grado di seguire gli eventi, e quindi quando riesce a sapere cosa è successo il mercato se n'è già andato. Quindi le fasi di grandi oscillazioni non sono fasi che favoriscono il piccolo risparmiatore, perché giustamente è altro da fare, la vita non è fatta soltanto di mercati finanziari, di borsa e neanche di denaro, forse più di cuori che di denaro, eccetera, ma forse neanche di cuori e basta, perché sì, un po' è un po', un dai. Po', è un po', eccetera. E quindi il risparmiatore non è in grado di seguire mercati molto rapidi e molto complessi. Di qui una valutazione, naturalmente è possibile fare, diciamo così, fare tutto da soli, oppure bisogna affidarsi a qualcuno. C'è una comunità, come sapete, quella dei trader online, probabilmente sono anche all'ascolto, che si sono industriati con piattaforme per seguire questi eventi. Per la gran massa dei risparmiatori bisogna dire che non è possibile seguire la Cina, seguire la Grecia, seguire l'Italia. E quindi bisogna affidarsi a chi a un gestore, a chi fa per loro, eccetera, ma controllandoli brutalmente, vedendo i risultati che ottengono. E quindi questo è il contesto. Se non vogliamo vivere in ansia ogni giornata e tutto, dobbiamo affidarci a qualcuno che per noi, pagato, gestisce i nostri soldi. Naturalmente le delusioni sono anche tante. Allora, tra l'altro, quando si verificano questi momenti di complessità finanziaria, non dobbiamo solamente guardare a quello che investiamo, al nostro portafoglio, diciamo, di risparmiatori. E lo segnalo perché questa mattina il Sole 24 Ore si dedica anche a questo, nelle pagine come arginare la volatilità dopo il no di Atene. Dobbiamo monitorare anche, per esempio, il nostro mutuo, il costo del credito, se dovessimo aver bisogno di chiedere un prestito prossimamente, perché abbiamo visto qualche anno fa, quando ci fu la crisi Lehman Brothers, che il primo effetto dirompente importante ci fu nel circuito interbancario, per cui i tassi di interesse che le banche praticavano per i prestiti fra di loro volarono appunto alle stelle, e di conseguenza il primo effetto importante fu proprio sulla rata del mutuo e sul costo del credito. Oggi viviamo un momento diverso, quindi forse più risparmio che va monitorato, però senza perdere lì ci fu una sfiducia fra banche, possiamo sintetizzare così, cioè le banche non si fidavano a prestarsi denaro l'uno con l'altra, chi ha eccedenze a chi ha carenze momentanee, e alle banche italiane in particolare nessuno voleva prestare, con il dubbio, stiamo parlando del 2011, naturalmente gli anni caldi, nessuno voleva prestare con il dubbio che le banche italiane non potessero restituire. In questa fase non mi sembra, anche perché si sono patrimonializzate, ci sono dei controlli molto vivaci, ricordiamo poi che c'è la BCE che vigila su tutto e tutti, oltre a portare liquidità sul mercato, sui titoli. E quindi mi sembra una situazione diversa. Detto questo, questo è un giusto monitoraggio che può fare il risparmiatore. Può andare a vedere per le condizioni, diciamo, di mutuo, per le condizioni di prestito. E qui bisogna fare poi un piccolo ragionamento se questa crisi greca non frena un po' il grado di distensione, la voglia di fare iniziative economiche, comprare una nuova casa, allargare quella esistente, tutto. Problema, lo vedremo nei prossimi giorni. Ma seguire i mercati finanziari, come dicevo invece, è molto molto difficile per un privato. Giusto invece seguire da vicino il lavoro dei propri gestori e criticarli, guardare le performance degli altri e confrontarli, prodotti omogenei naturalmente. Quindi avere un occhio vigile su quello che fanno i gestori, ma affidare a loro il compito. Mentre invece sulle condizioni di mutuo informarsi presso più banche e vedere quali sono le condizioni migliori. È chiaro che è un mercato che si mette un po' in movimento e quindi bisogna starci molto attenti. Però non è impossibile da questo punto di vista, perché le informazioni a disposizione ci sono. Allora, 800 24 00 24, il numero verde a disposizione degli ascoltatori che vogliono chiaramente porci i loro quesiti sugli scenari di mercato che a questo punto si potrebbero preannunciare da qui alle prossime settimane, che cosa fare del proprio risparmio anche per andare in vacanza tranquilli, chissà se continueranno le prenotazioni per la Grecia. Qualcuno dice che in realtà noi abbiamo fatto la puntata settimana scorsa, qualche operatore ci aveva detto che le prenotazioni non erano minimamente messe in discussione. Negli ultimissimi 2-3 giorni in realtà forse qualcuno ha cancellato qualche cosa, non lo so. Mi pare che sia un meno 15% dato dall'associazione degli albergatori greci prima del voto, quindi immaginiamo che l'abbiano fatto assolutamente in buona fede, ma sembrano delineare insomma quasi una paura della Grecia. In verità la percezione nelle isole già della crisi è diversa rispetto alla terraferma in Grecia. Come sapete è una nazione baciata dalla natura, la esatto. Grecia. Debora, tu lo sai perché c'hai ancora l'abbronzatura. Una abbronzatura greca. Ma questo l'ho presa 2 mesi fa. Perché è un po' invidiosa. Noi siamo bianchi, grigetti, milanesi. Tu sei abbronzata e quindi io credo che la Grecia manterrà la sua proposta turistica. È chiaro che se i servizi, trasporti, salute, eccetera, dovessero dare dei problemi, anche il turismo, grande turismo greco potrebbe... Perché qualcuno aveva già parlato di qualche difficoltà di approvvigionamento di generi alimentari e medicinali dalla terraferma alle isole, per cui già quando si cominciano poi ad agitare questi spettri è chiaro che le persone non vanno, soprattutto chi è che ha dei bambini piccoli, se poi non puoi ritirare. La verità, Debora, però i racconti che abbiamo dei colleghi ancora ieri che abbiamo sentito, la situazione soprattutto nelle isole è abbastanza tranquilla. Andiamo e ritorniamo anzi sui mercati. Allora, avevi delle cose da leggermi interessanti? Ricordo i nostri ascoltatori al 349-238-6666 accendono le dimensioni di Varoufakis, c'è chi dice è stato corretto, chi invece l'hanno tolto di mezzo ha dovuto farlo, insomma il ministro scamiciato piace. E molti commenti molti anche sulla questione che dicevamo prima, Nicoletta, questi sondaggi che veramente non ci prendono più, ma a prescindere dagli exit poll e dai sondaggi politici, anche fare previsioni come operatori del mercato finanziario è difficilissimo. Allora lo chiediamo ai diretti interessati che cosa avevano pronosticato e questa mattina che cosa hanno pensato quando hanno visto questa apertura di mercato. Volevo sentire subito Vladimir Biasia, che è docente alla facoltà di economia all'Università di Udine e partner di WB, che è il suo nome, il suo cognome, Advisor. Biasia, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari Speciale Grecia. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. L'abbiamo interpellato perché il dottor Biasia nei giorni scorsi ha diffuso un report scritto dalle sue stesse mani che si intitolava Scenari drammatici. Biasia, erano questi quelli che lei ipotizzava? Si sono concretizzati almeno secondo le sue previsioni, le sue idee? E quello che sta succedendo questa mattina, secondo lei ci sta questa tenuta e ne vedremo delle belle nei prossimi giorni? Insomma, che cosa è plausibile poter ipotizzare in queste ore? Premesso che la situazione è molto complessa, non solo dal punto di vista, diciamo, dello scenario europeo, ma direi a livello un po' globale, perché vi sono nello scacchiere dei mercati, vi sono varie situazioni difficili che si stanno articolando in queste ore, a partire anche dalla Cina. Detto questo, il report a cui lei si riferiva cercava di dare un orientamento ai nostri clienti sugli atteggiamenti da tenere in virtù di questa crisi e del referendum in vista che si teneva appunto nella giornata di ieri. L'idea nostra è che tutto sommato questa crisi favorirà ancora una volta il dollaro, ma questo lo stiamo dicendo ormai da un paio d'anni a questa parte, un anno in particolare, e favorirà il dollaro, e quindi noi suggeriamo di diversificare i propri portafogli inserendo anche attività denominate in dollari, in moneta diversa dall'euro, proprio per avere, come dire, una sorta di equilibrio valutario anche all'interno del proprio portafoglio. Dottor Biasia, la interrompo subito sempre perché noi vogliamo essere molto chiari nei confronti dei nostri ascoltatori. Quando un operatore parla di attività denominate in dollari, proprio per spiegarlo adesso qua non me ne vorranno, alla casalinga di Pavia, no, che no, è sempre quella figura, anche alla Nicoletta, che cosa intendiamo? Faccia finta che non ci rivolgiamo, ecco, ad un pubblico parli qualificato, parli a me che non so. Grazie. No, ha ragione, e fa bene interrompermi. Talvolta noi cadiamo in questo pessimo errore maleducato. Non è maleducato. Anche i medici parlano in medichese. È un modo, diciamo, per dire tutto ciò che riguarda gli investimenti, quindi da un titolo di Stato piuttosto che da un fondo comune di investimento, cioè tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione per investire, e banalmente li chiamiamo attività, ma sostanzialmente, ecco, nel portafoglio vale la pena di avere anche dei fondi piuttosto che dei comparti di SICAV che sono analoghi ai fondi, o obbligazioni, per esempio, quotate anche in una moneta diversa dall'euro, che noi pensiamo possa essere il dollaro ancora in questa fase. Quindi questo era il primo tema, cioè avere delle posizioni in dollari, che per noi rappresenta la strategia più significativa quest'anno. Poi sulla borsa italiana, non nego che a noi piace la borsa italiana, è piaciuta, piace tuttora, benché stiamo vivendo un ribasso del 2-3%, che tutto sommato è di misura rispetto a quanto abbiamo visto l'altro lunedì, quando invece la reazione è stata del -5%. Ciò che interessa osservare, questo è il nostro lavoro, cercare di interpretare le risposte del mercato degli investitori sui mercati a fronte di questi eventi. Ciò che mi piace osservare è che comunque sia questa grandissima volatilità che stiamo osservando, tutto sommato rimane circoscritta in un range, in un'ampiezza di valori, di prezzi, che continua ad oscillare, all'interno della quale continua a oscillare il mercato nel corso da un paio di mesi a questa parte. Quindi noi questo prezzo, questa quotazione del FTSE MIB attorno ai 22.000 punti, 21.850, l'abbiamo già vista nelle settimane precedenti. Per cui il mercato, tradotto in termini più leggibili, comprensibili, il mercato non sta scontando scenari così negativi, nel senso che si è posizionato su dei valori minimi del periodo, ma non ha ancora scontato, diciamo, scenari così negativi. E traducendo questo in termini di strategia, di investimento, la tenuta di questi livelli fa sì che il mercato comunque continua a nutrire una certa fiducia su una soluzione che in qualche misura possa giovare all'impianto stesso del mercato azionario europeo, in particolare, che comunque sia quota ampiamente a sconto rispetto a quanto non quotino altri mercati, come quello americano, piuttosto che ancora oggi quello cinese, piuttosto che quello tedesco. Volevo sentire il suo collega collegato telefonicamente con noi, Biasia, poi la lascio completare la sua analisi per capire se è d'accordo con lei. Saluto e ringrazio anche Jacopo Ceccatelli, amministratore delegato di Marzotto Sim, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie. Interpellato anche da Vito Lops per le pagine di oggi del Sole 24 Ore, anche Ceccatelli aveva preannunciato, pronosticato una giornata molto difficile per i mercati finanziari. Così non è, Ceccatelli? Che cosa vi ha sorpreso? E mi spiega anche la differenza rispetto invece alla giornata di lunedì scorso, quando rispetto ad un annuncio di referendum il mercato era invece era andato veramente in totale fibrillazione, si è spaventato moltissimo, per cui oggi rispetto invece ad uno scenario di no totale all'accordo con i creditori internazionali sembra più sollevato. Ancora una volta il mercato dice comunque l'importante è che si abbia una situazione di chiarezza davanti a noi, ma non c'è questa situazione di chiarezza. Come la dobbiamo leggere questa giornata? Ma sì, devo dire, anch'io mi aspettavo sicuramente un'apertura più negativa e quindi sono rimasto sorpreso positivamente stamattina. Evidentemente, come ha detto il collega, i mercati non stanno scontando uno scenario drammatico, sicuramente no. Probabilmente le dimissioni di Varoufakis hanno aiutato stamattina a una speranza di nuovi colloqui, nuovi accordi, comunque diciamo nuovi colloqui e un eventuale accordo, diciamo così. Quello che probabilmente rispetto a settimana scorsa è differente è che settimana scorsa venivamo da una serie di giornate di ottimismo, perché quando c'era stata la proposta di Tsipras sembrava che tutto fosse risolto e quindi sicuramente il mercato ha scontato una sorpresa negativa con questo referendum. Evidentemente in questo weekend il mercato era molto meno ottimista, era sicuramente attendista, gli ultimi sondaggi davano testa a testa e quindi da questo punto di vista la sorpresa è stata minore. Ecco, la cosa che un po' mi lascia perplesso è che oggettivamente da una lettura della proprio politica della situazione, politica e tecnica della situazione, la soluzione non è per niente facile e quindi il fatto vede una calma apparente lei sostanzialmente? Non so se è apparente, però è chiaro che sono d'accordo col collega, i mercati non stanno scontando scenari particolarmente complicati, e non vorrei che se poi questi scenari per caso tornano tra virgolette in auge, il mercato poi cominci a reagire malamente in un secondo momento. Allora, il tema è avere bene in testa, insomma, questi scenari possibili e avere anche naturalmente gli strumenti per potersi difendere. Allora, qua abbiamo un po' di cose da fare. Allora, abbiamo degli ascoltatori sì. che hanno chiamato il nostro numero verde e che naturalmente ci piacerebbe sentire. Direi di sì. E sono Silvano e Marco. Esatto. Però direi, diciamo a Silvano e a Marco di accompagnarci, perché noi abbiamo l'appuntamento anche coi mercati. Allora, siccome in realtà poi stiamo facendo tutta la puntatona sui mercati, io questo collegamento lo faccio brevissimo, così mi sbrigo e possiamo sentire i nostri ascoltatori molto rapidamente. Andiamo. Insieme a Paolo Zucca, Jacopo Ceccatelli e Vladimir Biasia, a tra poco. Cuore e denari. So, if there's a yes vote, come Monday night, you will not be finance minister. I will not. Right. Solo pochi giorni fa aveva annunciato già le sue dimissioni e aveva detto che si sarebbe dimesso se avesse vinto il sì. Invece, nonostante il successo del non ministro delle finanze greco, Yanis Varoufakis ha scelto comunque di fare questo passo indietro e paradossalmente anche questo viene premiato questa mattina dalla borsa, come ci spiegavano questa mattina gli operatori che abbiamo interpellato per aiutarci a capire qualcosa in più rispetto a questa reazione originalissima dei mercati finanziari rispetto al risultato greco. Ci si aspettava un calo molto forte stamattina delle borse, una reazione altrettanto forte sul mercato obbligazionario. Invece abbiamo questa wait and see, questa situazione di aspettiamo e vediamo che cosa succede, sia da parte dei mercati e poi anche da parte della Banca Centrale Europea. Adesso sulla Banca Centrale Europea arriveremo con il prossimo ospite che vi andrò a presentare. Nicoletta, intanto avevamo detto che volevamo sentire degli ascoltatori. Sì, abbiamo Silvano che ci chiama da Alessandria. Buongiorno Silvano, benvenuto. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua, Silvano. Allora, un quesito per me molto semplice, ma che non a tutti è chiaro. Cosa succederà ora a chi ha dei mutui? Con le due scene che si possono previsare? Lei ha un mutuo? Allora, no, perché siccome vedo dalle anticipazioni delle colleghe del centralino, Silvano, che lei voleva chiedere cosa succede per chi ha mutui greci. Non è così? Greco che ha un mutuo in Grecia. Ah, ecco, quindi è questo. Allora, il greco che ha il mutuo in greca, ma lei è in questa situazione? Ho un collega che è in questa situazione. Ah, ecco qua. Allora, è qua un bel punto interrogativo, diciamo che allo stato attuale, no? Allora, le banche sono ben contente ovviamente se si rimane, anche se loro sono a secco di liquidità, sono ben contente che le persone rimborsino i mutui naturalmente. Allora, da un punto di vista strettamente pratico, se il cliente, l'amico di Silvano che ci ha chiamato, eccetera, ha un reddito, non ho capito se è greco o se è italiano, comunque se ha un reddito comunque eccetera in grado di pagare, ha detto greco-greco per greco-greco in grado di pagare le sue rate eccetera, tutto normale, tutto normale, le banche sono felici contente di avere queste cose qui e non ci dovrebbero essere problemi. Più curioso e problematico potrebbe essere il caso del ritorno alla dracma. Vladimir Biasia, volevo chiedere a lei che cosa potrebbe succedere a chi ha un mutuo naturalmente espresso nella valuta europea se si dovesse ritornare alla divisa nazionale. Ma fermo restando che si tratta di uno scenario del tutto inedito e quindi cerchiamo di, come dire, interpretare il futuro senza elementi concreti, perché non vi è una, come dire, una giurisprudenza che possa in qualche modo aiutarci in questo senso. Ma innanzitutto, se la BCE non dovesse riattivare le linee di liquidità straordinarie attraverso il fondo ELA che finora ha garantito il sistema bancario, probabilmente si arriverebbe al punto che la Grecia in qualche modo deve stampare una propria moneta parallela all'euro e sarebbe la dracma. Uscirebbe con un cambio 1-1 il primo minuto, ma avremmo poi da parte del mercato una potenziale svalutazione di questa nuova dracma dell'incirca 50%. Ora, tutti i contratti stipulati all'interno, diciamo, della situazione sovrana greca, del paese greco, verrebbero di conseguenza regolati sulla base della nuova moneta. conseguentemente chi ha un mutuo secondo me dovrebbe essere ridenominato in dracme e dovrebbe ripagarlo in dracme. Quindi dal punto di vista, diciamo, del cambio non dovrebbe soffrire tensioni particolari, è chiaro che i tassi di interesse tenderanno a salire notevolmente. Però diciamo tendiamo a non voler disegnare uno scenario di questo tipo. Andrei, se sei d'accordo, Mauro, che ci chiama, certo, da Bologna, ricordiamo, certo, il nostro numero verde, la nostra barriera rosa, 800 24 00 24. Diamo voce ai nostri dubbi, alle nostre domande, per ricevere una risposta dai nostri, esatto, esperti. Mauro, buongiorno. Bella domanda, esatto, buongiorno, che è un ottimo assist anche per altre osservazioni con Paolo Zucca. Sì. Buongiorno. Buongiorno Mauro, benvenuto. Buongiorno, complimenti, fate una bella trasmissione, vi ascolto sempre, anche perché giro molto in macchina e viaggio molto in macchina. Niente, no, io sono convinto che alla volatilità e nei confronti della volatilità i consulenti finanziari, i gestori debbono con i clienti approcciare il massimo della tranquillità e della positività, cioè bisogna pensare che volatilità, se si sta fermi, probabilmente si arriva a conclusione e si porta a casa il risultato. Se ci si comincia a muovere, uscire, entrare, è allora che non ci si prende, ecco, è allora che non ci si prende mai. Io sono convinto che massima tranquillità, anche perché l'accordo con la Grecia è interesse di tutti, è interesse della Grecia stessa, è interesse dell'Europa, anche perché questa Europa deve capire che se dappertutto cominciassero a fare referendum, insomma, potrebbe essere in dubbio davvero la tenuta dell'euro. Quindi è quello che dicevamo a microfoni spenti, peraltro, Mauro, perché se tu vai a sentire ogni singolo cittadino di ogni paese, anche molti italiani sono assolutamente critici nei confronti dell'euro, continuano ancora a ricordare quando c'è stata la conversione fra la lira e l'euro, i prezzi sono letteralmente raddoppiati. Se tu vai in Spagna, con quello che hanno vissuto negli ultimi anni, diciamo che è ovvio che se si fa un referendum interno ad ogni paese in crisi economica in questo momento, tutti hanno la loro considerazione negativa. Detto questo, Mauro, mi scusi, la lascio completare. No, giusto. Quindi bisogna fare di necessità virtù, bisogna diventare saggi e fare davvero della politica e del dialogo il comune denominatore dell'Eurogruppo, dalla Merkel in giù, in sostanza, perché non bisognava arrivare qui, bisognava chiudere prima, comunque oramai. Lo diciamo da 4 anni. Però Mauro, mi pare di aver capito che lei fa il consulente finanziario. Esattamente. Ecco, che cosa sta dicendo allora ai suoi clienti in questo momento? Ai miei clienti sto dicendo di stare tranquilli, a meno che uno, naturalmente, se giovedì o venerdì non avesse detto cosa facciamo, avesse avuto bisogno dei soldi a breve, gli avrei detto magari posizioniamoci un attimo in liquidità in conto corrente. Però siccome di fronte ai clienti che hanno investito e hanno un anno, 2 anni, 3 anni di fronte, dico stiamo tranquilli, non muoviamo, perché io ho 16 anni che faccio questo lavoro, quando mi sono mosso in vedo uscendo, entrando di fronte alla volatilità, certo, quindi ho sempre fatto male. Mauro, grazie, quindi grazie, calma e gesso, dice Mauro. Paolo, tu avevi detto in apertura occhi aperti sul lavoro dei gestori, ma quali altre raccomandazioni ti senti di fare? Allora, che cosa evitare? Quale colpo di testa? Ma no, più che colpi di testa, già volte, sole ci arriva. Alcune volte la pigrizia di non andare a vedere cosa c'è d'altro di confrontabile, così come si fa per le auto, che abbiamo già detto altre volte, è molto più divertente andare a confrontare le auto prima di acquistare. Anche per i prodotti finanziari si può andare a vedere che cosa c'è in giro, sono prodotti omogenei, i fondi comuni, quindi è possibile confrontare diverse categorie, non necessariamente quelle che vengono offerte la prima volta dalla prima banca, così per i mutui, così come tanti altri prodotti, per pigrizia vanno presi. E quindi è uno sforzo di informazione, e mi rendo conto che occorre dedicare del tempo, fare dei confronti, verificare dopo un lasso di tempo qual è stato il risultato del gestore. Sono pratiche, diciamo, molto semplici, ma che occorre prevedere, perché altrimenti si compra e poi ci si dimentica. Senti, cosa, ma ci possono fare delle proposte magari? No, loro fanno, ecco, no, delle proposte da evitare, da allontanare, quali sono? No, proposte da allontanare, cioè, bisogna guardarle tutte. Ad esempio, c'è un costo che si chiama terma, non vorrei entrare in questo momento, diciamo, in pratica, cioè, hanno i costi di gestione, i costi di mantenimento, e poi sono frutto, diciamo, di una politica dell'industria del risparmio gestito abbastanza onerosa per il risparmiatore. Quindi bisogna andare a vedere, diciamo, di tutte le parti che vengono offerte, la qualità del prodotto, il contenuto del prodotto, i costi del prodotto, qual è il prodotto omogeneo confrontabile. Siccome questi confronti sono molto facili, soprattutto se ti fanno delle proposte di rendimento che sono assolutamente fuori mercato. mercati in questo momento, già tutto ciò che ti dicono è al di sopra del 3 il 4%, brava, fidare un po', perché ovviamente adesso fammi non dire, c'è Nicoletta, che... però una cosa prima di scappare alla riunione del sole che sta per iniziare in questo momento, proprio al rapporto fra consulenti e clienti, una certa Deborah Rosciani domani scriverà su Sole 24 Ore. No, ho già scritto, ho già consegnato il pezzo, ha già fatto tutto, è già stato corretto. No, stato c'è un rapportone che esce domani sul banking, appunto, con il Sole 24 Ore, chiaramente la cronaca relativa alla Grecia. Il tema era appunto quante volte sentirsi materiale fra cliente e consulente. Il check-up di portafogli abbiamo analizzato in lungo e in largo, non Nicoletta, questo argomento. Grazie Paolo per questo, questo lancio. Grazie. Ciao. Allora, io intanto saluto anche un'altra ospite che ci ha raggiunto, adesso sentiamo un po' una voce femminile sui mercati, Miriam Berizzi, responsabile specialisti di mercato di Anima SGR. Dottoressa Berizzi, buongiorno. Buongiorno a tutti. So che sta monitorando anche le sale operative, appunto, del vostro gruppo in questo momento. C'è molta fibrillazione. Che cosa ci racconta? Certamente, stiamo monitorando assolutamente. Ora è chiaro che l'esito del referendum non è uno sviluppo positivo. Allora, ecco, dottoressa Berizzi, scusi. Telefonata pessima, la ripristiniamo se lei ha un momentino di pazienza. Che dice? Adesso i nostri ragazzi appunto ci pensano. Ci mandano subito a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. E poi ritorniamo subito dopo insieme. Tra poco. Cuore e denari. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά από εσάς ξεχωριστά. Ανεξάρτητα από το τι επιλέξατε στην κάλπη σήμερα, από τώρα και στο εξής, είμαστε όλοι ένα. Io purtroppo non ho cultura classica, non capisco il greco, ma è comunque molto affascinante ascoltare Tsipras. Questo era il suo intervento di ieri sera alla televisione greca per commentare i risultati che non erano ancora definitivi ma già abbastanza chiari del referendum appunto sulla proposta dei creditori, che hanno visto poi il no nettamente in vantaggio con il 61% dei voti. Tsipras ha ringraziato tutti gli elettori, anche quelli che hanno votato per il sì. La partecipazione comunque è stata notevole da parte della popolazione greca. Ha ribadito che il referendum non riguardava l'uscita di Atene dall'euro, ma non ha parlato di una possibile riapertura delle banche greche. Vedremo quindi nelle prossime ore che cosa succederà. E anche in questo caso siamo tutti di nuovo per l'ennesima volta appesi all'uomo con le più grosse responsabilità del momento, alle decisioni che prenderà nelle prossime ore. Mario Draghi. Bravissima Nicoletta. Allora, Miriam Berizzi, responsabile specialista di mercato di Anima SGR. Adesso vediamo se il collegamento a una qualità migliore rispetto a prima. Le avevo chiesto così al volo un commento su quello che stava accadendo stamattina nelle vostre sale operative, ma in realtà poi il focus che vogliamo fare è proprio sulle iniziative delle prossime ore della Banca Centrale Europea. Tra l'altro la Grecia deve alla BCE 3 miliardi e mezzo di euro e dopo che è stato dichiarato questo default sul prestito da restituire al Fondo Monetario Internazionale entro il 30 giugno da 1,6 miliardi, adesso bisognerà a capire se la Grecia troverà questi 3 miliardi da dare entro il 20 luglio all'organismo di Francoforte. Qual è lo scenario che è possibile delineare, dottoressa Berizzi? Sì, buongiorno di nuovo. Ottimo. Allora, forte e chiara adesso. Ottimo. Perfetto. Allora, la Banca Centrale Europea ha un ruolo cruciale nella gestione di questa crisi, perché i tempi della discussione politica sono quelli che sono, ma a dettarli davvero è l'evoluzione del quadro economico, e il quadro economico dipende dallo stato di salute delle banche. I controlli sui movimenti di capitale non riescono a impedire i deflussi e ci sono già molti sportelli ATM senza più cash, ci sono già difficoltà per gli importatori e per il sistema dei pagamenti. Questa è una situazione che non potrà essere sostenuta per molti altri giorni. Sappiamo che l'unica possibile soluzione sarebbe la concessione di ulteriore liquidità d'emergenza, ma chiaramente è quasi impossibile con una Grecia che è formalmente fuori programma e con le negoziazioni che sono finite pure in stallo. Quindi lo scenario più probabile è che per ora la ELA continui ad essere congelata, quindi non sia concessa ulteriore liquidità d'emergenza, e a quel punto la data limite sarà proprio il 20 luglio. Data limite perché, come dicevo, dicevamo poco fa, è previsto il rimborso di questi 3 miliardi e mezzo di un'obbligazione greca che la BCE aveva comprato ai tempi dell'escalation della crisi nel 2010. Ora, se anche questo rimborso non venisse onorato, come è accaduto con quello del Fondo Monetario Internazionale, a questo giro il default ci sarebbe, un default tradizionale, non sarebbe in mora, diciamo, come è accaduto con il Fondo Monetario Tradizionale Internazionale, sarebbe un default di quelli tradizionali con i trigger dei CDS, eccetera, eccetera. In quel caso la BCE non potrebbe più continuare a considerare solventi le banche greche, ovviamente, sarebbe costretta a ritirare la liquidità straordinaria che finora ha concesso e che ha congelato da settimana scorsa, e senza questa liquidità le banche chiaramente non potrebbero sopravvivere, il sistema creditizio andrebbe al collasso e con lui chiaramente l'economia. Non è un caso che Standard & Poor's abbia portato le banche greche, il rating delle banche greche settimana scorsa in selective default. Però certo che la BCE adesso ha, come dire, stretta in una sorta di conflitto molto forte, perché qualunque iniziativa dovesse prendere anche qua sarà di carattere, come dire, straordinario e non preventivato, nel senso che comunque con quello che è successo il 30 giugno con il mancato rimborso al Fondo Monetario Internazionale, la Grecia è al di fuori da ogni meccanismo di protezione appunto assistita, no Berizzi? Certo. È al di fuori di ogni meccanismo di protezione. Virtualmente molti economisti stimavano che la BCE avrebbe potuto ritirare la liquidità già dopo quel mancato pagamento. In realtà, a ben vedere, non ci sono delle regole ben definite per la concessione di questa liquidità straordinaria, quindi questo crea dei margini in cui Draghi sta cercando di muoversi in modo da evitare che sia una scelta della BCE a far precipitare la situazione. Chiaramente questo sarebbe uno sviluppo che non è assolutamente nella volontà della BCE. Proprio per questo è probabile che la situazione prosegua in questo modo fino al 20 luglio, però quella chiaramente sarebbe una data limite. È importante però sottolineare che la BCE non è cruciale solo nella gestione tecnica della crisi greca, ma è cruciale anche per la reazione dei mercati, perché alla fine della scorsa settimana si sono espressi in modo fortissimo diversi membri del board della BCE. È sfuggito ai più che venerdì è stato ampliato lo stock di titoli che possono essere acquistati dalla BCE con il programma deliberato a gennaio, un segnale fortissimo. E lo stesso Pratt, che è un membro del consiglio direttivo, ha detto che la BCE è pronta a intervenire non solo con gli strumenti che ha a disposizione, ma se necessario ne introdurrebbe altri. Quindi, come dire, è sicuramente la barriera più forte al contagio di cui oggi l'Europa dispone. E noi pensiamo che sia una barriera credibile, che ci si possa fidare, ecco. Vedremo quali altre cartucce estrarrà dalla sua pistola Mario Draghi oggi. Il bazooka di Draghi. Volevo sentire con un'ultima considerazione Jacopo Ceccatelli, che abbiamo fatto aspettare lì troppo a lungo. Ceccatelli, la settimana scorsa abbiamo visto le aste dei titoli di Stato italiani riportare i rendimenti appunto delle nostre obbligazioni sui massimi da un anno a questa parte, e con quelle aste di settimana scorsa il Tesoro italiano ha praticamente coperto il 60% del fabbisogno previsto per il 2015. Le volevo chiedere, secondo lei, con questa situazione di nervosismo con cui dovremo abituarci a convivere probabilmente per tutta l'estate, vedremo ancora qualche rialzo dei tassi di interesse sulle obbligazioni, tenendo conto anche del fatto che i rendimenti erano così schiacciati che forse anche l'aumento che abbiamo visto settimana scorsa va sulla strada di una normalizzazione che era quasi necessaria? Le chiedo appunto di scattarci una fotografia su questa asset class, sul mercato obbligazionario, con un piccolo focus sull'Italia. Ma sì, allora, non solo nell'ultima settimana, negli ultimi 2 mesi e mezzo sì, certo, i tassi si sono riadeguati a rialzo, ed è sicuramente stato un movimento in un certo senso, così, diciamo, fisiologico, fisiologico, che ha normalizzato un po' una situazione che era oggettivamente troppo schiacciata. Come dicevate giustamente all'inizio, io penso che adesso ci aspettino settimane dove saremo un po' dipendenti dalle notizie, quindi può anche darsi che i tassi, i rendimenti sui titoli di Stato italiani tornino ad aumentare. Io credo che, anch'io credo che la Banca Centrale Europea oggi ha i mezzi per contenere questo eventuale aumento dei tassi, e penso anche che se ci dovesse essere una deflagrazione, diciamo, in termini politici della crisi greca e la BCE dovesse dimostrare di riuscire a tenere, tra virgolette, a bada i mercati, potrebbe addirittura presentare poi una situazione dove effettivamente la fiducia torna ancora più forte in questo operatore nella BCE, e quindi potrebbe paradossalmente diventare un'opportunità di acquisto la crisi della Grecia. Staremo a vedere. Certo. In ogni caso è chiaramente in questo momento centrale. Cioè, Catelli, per chi avesse questo pelo sullo stomaco in questo momento, dove si stanno creando in questa fase delle buone opportunità di investimento, a suo avviso? Ma allora, che sospirone che ha fatto. Ma sì, perché chiaramente non. Allora, stamattina, francamente, se ci fosse stata un'apertura diversa, potevamo parlare di opportunità di acquisto. Vista un'apertura così educata, tra virgolette, non sarei di questo avviso, almeno per il momento. Aspettiamo le prossime settimane su correzioni importanti. Appunto, io credo che sia sull'azionario, dove appunto l'Italia resta, sull'Italia in generale, i paesi mediterranei restano su valutazioni decisamente a sconto, sia sui titoli di Stato, se dovessimo vedere uno spread che si avvicina ai 200 punti base, probabilmente a quel punto si può parlare di opportunità di acquisto, proprio perché appunto mi aspetto che la BCE faccia il suo lavoro e che mantenga la sua credibilità. Grazie a Jacopo Ceccatelli, amministratore delegato di Marzotto Sim, che salutiamo, ci ha tenuto compagnia in questa prima parte di Cuore Denari. Poi noi ritorneremo su questi temi naturalmente nella seconda. Lo vuoi salutare tu? Allora sì, per cui io ho un debole, perché abbiamo fatto, no? Abbiamo dato da gestire il nostro portafoglio con te, è stato un pochino più aggressivo, io gli avevo raccomandato una gestione molto prudente. Gianni Lupotto, che è il mio maestro, consulente finanziario indipendente e titolare dello studio di consulenza finanziaria indipendente Lupotto e Partner. Lupotto, ci sente? Buongiorno. Deve sentire. E poi anche un po' torinese come me. Un po' tanto. Dobbiamo chiedergli di ascoltare il giornale radio. Adesso arricchiremo la nostra batteria di informazioni sull'evoluzione della crisi greca. Io saluto anche, ringrazio per essere stato con noi, Vladimir Biasia, che torneremo a disturbare nei prossimi giorni. Miriam Berizzi rimane con noi. Insomma, ancora tante cose da raccontare. A tra pochissimo. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Cuore e denari. Devo dire che un po' il nostro palinsesto, come quello di tante altre radio di informazione, come un po' i giornali, siamo un po' monotematici, però insomma magari ci passerà nei prossimi giorni. Adesso però dobbiamo controllare qual è l'effetto di questo risultato del referendum indetto dalla Grecia. Ieri, lo sapete, il 61% dei greci ha detto no alla proposta di accordo tra Atene e creditori internazionali, quindi Tsipras ha avuto ragione della sua scelta, quella di interpellare il suo popolo, che d'altronde a gennaio gli aveva dato un mandato anche importante. Il referendum e l'effetto sui mercati lo stiamo controllando da questa mattina, anche qua ancora una volta l'occasione per discutere di tutte quelle volte in cui le previsioni non ci azzeccano, no Nicoletta? Noi ci abbiamo un po' sorriso, ma in realtà il tema è anche un po' questo. Sì, arrivano anche molti messaggi dei nostri ascoltatori dicendo avete ragione, chi indovina la Grillo, no? Come ci scrive un nostro amico al 349-238-6666. Continuate anche a chiamare il nostro numero verde, mi raccomando. Oggi sono qua per ricordarvelo, 800 24 00 24. Il nostro focus è cosa fare anche alla luce di questo nervosismo? Allora, stamattina appare tutto un po' tranquillo, ma perché abbiamo già detto prima, stiamo aspettando le decisioni della Banca Centrale Europea, che dovrà comunque nelle prossime settimane sostenere il sistema bancario ellenico, che altrimenti non avrà più denaro da erogare, non solo i 60 euro al giorno ai greci, ma voi immaginate cosa potrà succedere nelle prossime settimane per tutti i turisti che arriveranno, che non vogliono e fanno bene rinunciare alle loro vacanze, ma che si dovessero trovare un po' sprovvisti di liquidità. Non è che si possono portare centinaia di migliaia di euro appunto dai paesi di provenienza. Quindi insomma la situazione di tensione sulle banche continuerà. La BCE è chiamata a prendere nuove iniziative di carattere straordinario nelle prossime ore. Il mercato, come ci spiegava prima anche la nostra ospite Miriam Berizzi, appunto è in attesa di capire che decisioni assumerà Mario Draghi. Detto questo, adesso, come ci piace fare con Nicoletta, ci mettiamo dalla parte del piccolo risparmiatore. Certo, e abbiamo, lo facciamo, sì. Abbiamo il nostro Gianni Lupotto, a cui chiediamo già subito un'impressione, non si può dire a caldo perché ormai sono passate un po' di ore, ma forse il termine più giusto con i 40 gradi di Milano, Torino e non solo. Lupotto. Sì, eccoci qua, ma a caldo l'impressione è quella che è già stata riferita anche da altri esperti che sono intervenuti, quindi che il mercato ha agito con prudenza ma non con panico, quindi la reazione è stata meno violenta di quella che ci si sarebbe potuto aspettare. Quello che io mi aspetto nei prossimi giorni è comunque una continua volatilità giornaliera molto pronunciata, magari con mercati che si muovono in alto o in basso di 1, 2 o anche 3 punti percentuali, proprio alla luce di dichiarazioni, prospettive di accordo o di disaccordo che a mano a mano si inanelleranno nei prossimi giorni. Allora, cosa si fa in momenti come questo? Un suo collega che ha spontaneamente telefonato a numero verde prima diceva: io quello che suggerisco di fare ai miei clienti è di non fare nulla. Sì. Quindi mettersi lì in tranquillità, perché sono proprio questi i momenti in cui si rischia di prendere delle decisioni avventate, naturalmente proprio, come dire, con l'obiettivo di proteggersi un po', in realtà magari si fanno delle scelte totalmente contrarie alla prudenza e alla protezione. Allora, lei è stato interpellato anche sabato per Plus 24 del Sole 24 Ore dal collega Andrea Gennai, e vedo che lei, come altri suoi colleghi, appunto suggerite in fasi come questa di proteggere il proprio risparmio con degli strumenti di investimento abbastanza particolari, specifici, e sono i certificati di investimento. Lupotto, perché questo ritiene sia lo strumento ideale per affrontare la volatilità di mercato? Che caratteristiche hanno questi strumenti di investimento? Quali pregi, magari anche quali difetti, naturalmente, perché non è che salveranno da tutti i mali del mondo, no? I certificati. Sì, certamente, sì. Certamente. Anzitutto, come premessa, dico che sono abbastanza d'accordo che nei momenti di alta volatilità è sempre bene non farsi prendere dalla frenesia e quindi magari rallentare un po' l'operatività, soprattutto se si è fatta un'adeguata pianificazione finanziaria preventiva. Detto questo, in periodi di alta volatilità, soprattutto quando i mercati hanno subito una qualche discesa, come è il caso di questi giorni, i certificati di investimento presentano delle caratteristiche interessanti per coloro che vogliono abbassare in qualche misura il rischio azionario, quindi sono rivolti a coloro che magari vorrebbero investire o hanno già investito in azionario e vogliono ridurre un attimo il rischio di portafoglio. Perché? Qual è la caratteristica dei certificati di investimento? Offrono un rendimento relativamente contenuto e costante, ma è molto interessante, superiore a quello delle obbligazioni, per esempio, fin tanto che i sottostanti azionari sui quali sono stati costruiti rimangono al di sopra di certi livelli che vengono definiti barriere. Fintanto che questo possiamo fare un esempio, per esempio. Bravo, bravo. Saremmo subito andate a questa richiesta. Guarda, ci conosce anche le tasche. Domande, le uniche domande che posso fare io, mi spieghi meglio? No, ce ne hai anche altre per Miriam Berizzi, perché adesso ci interessa anche di nuovo ritornare un po' sulle dinamiche internazionali, ci sono molte curiosità che abbiamo. Sì, Lupotto. Perfetto, oggi per esempio l'indice italiano è a 22.000 punti, sì. Uno non sa se comprare, se vendere, se scommettere su un rialzo o aspettare. Magari si può adocchiare un certificato che è in grado, per esempio, di pagare un premio semestrale del 2 o del 3%, purché l'indice azionario italiano non scenda sotto, per esempio, 17.500 punti o 18.000 punti. Che quindi la barriera insomma è molto lontana, diciamo, per cui teoricamente... Lontana, per esempio, sotto i minimi, per esempio, del 2014. Allora, in questo caso il vantaggio è che il risparmiatore si mette più tranquillo, non deve guardare ogni giorno i mercati, ma casomai fa attenzione che la barriera non si avvicini troppo. Questo rende molto più tranquillo il risparmiatore. Naturalmente questi strumenti devono essere inseriti in portafoglio in modo coordinato e un po' diversificato, non si può prendere un certificato che ha come sottostante l'indice italiano e basta. Lupotto, la devo interrompere per un attimo perché non so che cosa succede ogni tanto, ci sono delle congiunture astrali strane per cui i collegamenti telefonici sono tutti problematici, per cui adesso magari lei non se ne è reso conto ma noi la sentiamo un po' gracchiante, per cui ripristiniamo anche la telefonata con il nostro Gianni Lupotto. Però c'era questa bella curiosità che aveva Nicoletta, che voleva affrontare con Miriam Berizzi, sulla qualità degli elettori greci. Leggevo, no? Sì, perché leggevo non si spaventi Miriam Berizzi, poi torniamo ai suoi argomenti. Stamattina sul Fatto Quotidiano, no? Questa considerazione che insomma a votare in massa per il no sono stati soprattutto i giovani, no? Giovani che per una serie di esperienza sono più europeisti forse dei loro genitori. Allora che cosa chiedono forse questi giovani? Un'Europa diversa da quella che hanno davanti agli occhi e che vedono agire. Cosa ne pensa lei? Dottoressa Berizzi. Sì, sono assolutamente d'accordo. Chiedono un'Europa diversa, un'Europa che dia loro delle prospettive. La situazione è abbastanza complessa, nel senso che un po' tutte le indagini di voto, ma anche quelle realizzate stamattina, i sondaggi di stamattina, ribadiscono che i greci vogliono rimanere fermamente in area euro. Paradossalmente i greci sono uno dei popoli più europeisti in assoluto, il 75% dei greci è convinto di questa necessità e la percentuale, questo forse non è noto, è andata addirittura salendo da che Tsipras è arrivato al governo. Quindi paradossalmente forse il messaggio che hanno voluto lanciare con questo referendum è: noi non abbiamo più niente da perdere e l'obiettivo è come dire, cercare un posto per noi che siamo in questo momento miseri e reietti, un posto che sia un po' più dominante, eventualmente anche in un cambiamento di direzione del processo politico in area euro. Non bisogna dimenticare, a mio modo di vedere, anche perché si è scritto molto sui giornali rispetto a questa strategia, diciamo, azzardata e quasi avventurista del governo greco, alla sua mancanza di preparazione, anche agli intrighi, agli inganni. Per carità, tutto vero, però è anche vero che il prodotto interno lordo greco è calato del 25% nel 2010, è vero che le politiche di austerità crude, io direi quasi crudeli, sì, poste dalla Troica ai tempi hanno gravemente soffocato un'economia, cioè come dire, abbiamo ragione tutti a dire i greci sono stati irrazionali, ma se guardiamo anche un pochino più indietro, forse non così irrazionali. Davvero questi giovani non hanno più niente da perdere. Credo che il messaggio che è arrivato all'Europa sia questo: un'Europa così non può stare in piedi, non può stare in piedi, bisogna necessariamente cambiare e bisogna cambiare nella direzione di pensare, di immaginare un'Europa diversa, un po' come la vollero i grandi fondatori. Ecco, mi viene in mente Kohl quando si fece carico della Germania dell'Est, i fondatori avevano un'idea un po' diversa di Europa, di quella a cui stiamo assistendo oggi. E chiudo semplicemente con una considerazione: mi è piaciuto moltissimo il riferimento secco ma asciutto come di consueto di Mattarella, che ha detto serve oggi responsabilità politica e lungimiranza. Credo che sia l'atteggiamento che tutti devono avere da una parte e dall'altra. Grazie per questa sua analisi, Miriam Berizzi, che ci fa naturalmente molto piacere, perché qua ci dà anche il modo di raccontare ai nostri ascoltatori che chi si occupa di mercati finanziari dalla mattina alla sera non è che sta lì incollato davanti ad un computer a guardare i livelli degli indici, lo spread, ma l'andamento anche un del cuore, è il caso cuore, di dire, no? Oltre ai denari il cuore, oltre ai numeri, deve cimentarsi anche in analisi molto più approfondite, perché poi si prende il denaro degli altri, lo si deve gestire al meglio, per cui è chiaro che lo si deve fare in una condizione di consapevolezza a 360 gradi. Grazie a Miriam Berizzi. Allora, ritorniamo ai nostri certificati di investimento con Gianni Lupotto. È tornato anche lui. Ci faccia sentire la sua voce, la che così voce certifichiamo. Allora, tra l'altro stavo riguardando il pezzo di Plus 24 dove viene indicato come ce ne siano diversi tipi anche di questi certificati di investimento, hanno dei nomi stravaganti, per cui prima di sottoscriverli, anche se Gianni Lupotto ci rispiega benissimo, andate a valutare le caratteristiche di ognuno di questi strumenti. C'è il bonus cap, c'è l'express, il cash collect, quindi già solamente a guardare i nomi un po' saremo teoricamente scoraggiati dal sottoscriverli, Lupotto. In realtà sono abbastanza semplici nella loro dinamica. In realtà troppo semplici non sono, è vero quello che lei sta dicendo, Deborah, e quindi un pochino bisognerebbe farsi aiutare, soprattutto se si è un po' in digiuni di questi strumenti, perché sono tanti, hanno caratteristiche tra di loro differenti, ce n'è un'ampia scelta sul mercato, quotati sul mercato, certo. Sedex o Euro TLX, quindi conviene un po' affidarsi a qualche persona più esperta. Quello che utilizzava lei prima, titolo esemplificativo, quello che ha come barriera per esempio la soglia minima che può raggiungere, quello che esatto, tipo facevo è. Facevo un esempio, questi possono essere sia bonus cap che express, che funzionano in questo modo, che hanno una barriera. Quindi ci sono dei gruppi, possiamo dire, ci sono delle categorie di questi certificati di investimento? Sì, esattamente, sono suddivisi in categorie con delle caratteristiche di payback, quindi di ritorno del capitale investito, leggermente differenti a seconda della categoria. Tutti però sono caratterizzati da un rendimento interessante ma non elevatissimo, quindi appunto che limita quindi il rischio, a fronte di una barriera abbastanza distante che però va selezionata con cura. Qual è il difetto del certificato? Il difetto è che se la barriera viene toccata, il comportamento del medesimo è uguale al titolo azionario o all'indice sottostante. Ecco, quindi che cosa fa? Non ripaga per esempio quelle... Ha delle cedole il certificato di investimento, Lupotto? Nel caso di Cash Collect ha delle cedole, nel caso di Bonus Capo di Express paga un premio finale e può essere anticipatamente eventualmente anche rimborsato. Quindi bisogna portarlo a scadenza e paga questo premio finale a patto che non togli a patto che non tocchi questa barriera che lei diceva prima, no? Che può esatto. essere differentemente. Se la tocca non riconosce il premio finale? Riconosce il premio finale e si comporta nel tempo fino alla scadenza o al rimborso anticipato come l'azione sottostante, quindi non ha un rischio superiore a quello dell'azione, anzi si può dimostrare matematicamente che il rischio è sempre inferiore a quello dell'azione sottostante. Tuttavia, appunto, dobbiamo essere consapevoli quando investiamo in questi certificati che il rischio azionario esiste, perché se tocca la barriera il comportamento è come quello. Lupotto, senta, ci sono altre curiosità da parte degli ascoltatori, poi avevamo anche ipotizzato, Nicoletta, in una modalità che so già ti piacerà moltissimo, con Gianni Lupotto, di così fare delle previsioni teoriche per profili di risparmiatore diversi. Chi ha adesso un portafoglio molto esposto in titoli di Stato cosa deve fare? Chi ha molta liquidità in tasca cosa deve fare? Chi ha un portafoglio largamente esposto in azioni cosa deve fare? Ma è uscito fuori anche l'ascoltatore che invece è interessato a investire in oro e chiedeva al dottor Lupotto se questa può essere in questo momento particolare una buona idea. Per chi torna sul tradizionale bene rifugio, Lupotto, l'oro è il classico bene rifugio, è un investimento un po' improprio perché non ha ritorno, diciamo, non ritorna una cedola o un dividendo, però è un bene rifugio che trova la sua diciamo, giustificazione nei momenti diciamo, drammatici di mercato. Quindi ciascun risparmiatore deve fare una autovalutazione del proprio profilo di rischio. Certamente una quota di oro nel proprio portafoglio non eccessiva può trovare una sua collocazione. C'è poi da scegliere se acquistare l'oro fisico, che presenta diciamo dei difetti di stoccaggio e di conservazione, oppure se investire in oro tramite degli strumenti di investimento come gli ETC. Certo. Che replicano il comportamento del loro figlio. Allora, noi abbiamo 2 minuti di tempo a disposizione, quindi pochissimi. Lupotto, magari la sua analisi, che la faccio fare in un minuto, dovrà essere telegrafico, perché volevo sentire anche Miriam Berizzi che cosa pensava di questo fatto, che comunque con l'incertezza di questi giorni né il prezzo dell'oro ha preso il volo, né per esempio neanche il franco svizzero si è mosso in maniera particolare, quindi tutto ciò che è considerato rifugio in realtà in questi giorni è stato abbastanza tranquillo. In 30 secondi ce lo riesce a spiegare perché? Miriam Berizzi, ecco, sì. Allora, io avrei 2 considerazioni da portare in 30 secondi. Uno, il posizionamento del mercato era molto leggero, stante la natura binaria del rischio, quindi tutti gli edge che bisognava caricare erano già caricati. E secondo, l'atteggiamento attendista dei mercati, che si è manifestato con forza nella reazione composta di stamattina, è l'unico possibile in un contesto così fluido. Quindi secondo me queste due il ragioni... Il mercato era già pronto anche, insomma, a una situazione come quella di oggi. Esattamente. Quindi questo è un po' il motivo per cui poi altri scossoni sulle asset class difensive non ci sono state. Lupotto, ce la fa in 30 secondi a fare i 3 profili che dicevamo prima? 40. Certo. Allora, per chi ha un titoli di Stato, direi l'alleggerimento andava casomai fatto prima, adesso non mi sembra un problema mantenere i titoli di Stato perché la BCE è attrezzata a sostenere lo spread. Per chi ha azioni, se si sente un pochino in difficoltà con il rischio attuale, si può leggermente alleggerire, tenuto conto che chi ha qui investito in azioni inizio anno ha ancora il 15% di guadagno. Per liquidità? Perché liquidità può mantenerla la gran parte in attesa di eventi, come è già stato detto, e può affacciarsi, come abbiamo accennato prima, al mondo dei certificati. Bene, grazie. Tornate presto a trovarci. Grazie a Gianni Lupotta, a Miriam Berizzi. Noi a questo punto aspettiamo Draghi. Domani ritorniamo a ranghi tradizionali con Cuore Denari. Grazie a tutti. Buona giornata. A domani, buona giornata.